24. La storia. Non esistono supereroi, ma uomini con pregi e difetti, con virtù ed eccessi. Ma non bisogna certo dimenticare quello che di positivo ha fatto negli 10 anni in cui è stato il simbolo per milioni e milioni di persone. Quando mi svegliavo la mattina, dicevo a mio fratello: prendi le tue scarpe. E lui rispondeva: prendi le tue gambe. Oscar Pistorius, arrestato per la morte della fidanzata, passerà la notte in prigione e la polizia si è detta fin da ora contraria al suo rilascio su cauzione. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un uomo, un atleta che ha sfidato i suoi limiti, trasformando un difetto genetico nel segreto del suo successo. È Oscar Leonard Carl Pistorius, 29 anni, 1,81 m per 77 kg. Nello sport dei disabili, il Blade Runner ha raggiunto tutti i traguardi: 6 ori, un argento, un bronzo ad Atene nel 2004 e a Londra nel 2012. Ma allo sprinter senza gambe più veloce del mondo, all'uomo che ha sfidato i normodotati con 2 protesi in carbonio, è bastata una sola notte per stravolgere la sua vita. La porta del bagno era chiusa e la finestra aperta. Sono rimasto per un po' lì fermo, non molto, tra la finestra e la porta. Ho sentito dei rumori dal bagno. Continuavo a pensare che qualcuno sarebbe uscito. Poi ho sparato 5-4 colpi alla porta. Ho spalancato la porta con violenza. Mi sono seduto sul corpo di Riva e ho pianto. Non so per quanto tempo sono rimasto così. Lei non respirava più. Settecentotrentotto sono i giorni dall'omicidio, 3 i mesi di fidanzamento tra Oscar e Riva, 5 sono i testimoni che hanno sentito le urla di Riva quella notte, e tra questi c'è Michelle Berger, testimone d'accusa e vicina di casa di Pistorius. Non avevo mai sentito colpi d'arma da fuoco prima di allora. È molto difficile per me ricordare. Posso dire che quando ero nella doccia li ho sentiti urlare. Erano urla terrificanti. 29 anni è l'età di Riva quando è morta. 1700 è il numero dei messaggi WhatsApp che si sono scambiati quando erano una coppia. 16 i testimoni chiamati dalla difesa a parlare in favore di Pistorius. 4 i colpi esplosi. Ascoltiamo l'ex detective di Scotland Yard e giornalista Mark Thomas Williams. Io credo che uno dei primi errori delle indagini della polizia sia stato l'accertamento delle testimonianze dei vicini e le prove audio. Per verificarle è necessario infatti cercare di replicare i suoni nelle stesse condizioni e nello stesso ambiente in cui si sono verificati. È molto problematico ricostruire le condizioni che c'erano al momento dell'omicidio. Sono le 2 accuse per Pistorius: omicidio colposo e detenzione illegale di arma da fuoco. 5 sono gli anni di reclusione assegnati dal giudice Masipa il 21 ottobre 2014, il giorno della sentenza di primo grado. Signor Pistorius, la prego di alzarsi. Questa è quella che io considero una sentenza equa e giusta, sia per la società sia per l'imputato. Capo di imputazione numero 1, omicidio colposo, colpevole. La sentenza impone una condanna di 5 anni di reclusione. Così si chiude il primo processo a carico di Pistorius. L'atleta nel 2013 è testimonial della Nike, con l'infelice slogan «un proiettile in canna». Subito dopo l'arresto l'azienda rimuove i cartelloni pubblicitari e sospende il contratto internazionale del campione. Nella vita dell'atleta ci sono dei precedenti controversi. È il febbraio 2009, Pistorius, andando a tutta velocità con un motoscafo, prende in pieno la banchina di un molo a Val River, si ferisce gravemente al volto. A settembre dello stesso anno trascorre una notte in carcere per aver ferito la blogger di Pretoria, Cassidy Taylor Memory, ospite ad un party a casa del campione. A parlarcene lo scrittore Maurizio De Giovanni e l'ambasciatore italiano in Sudafrica, Vincenzo Schioppa. Pistorius, a quanto mi risulta, non era nuovo a eventi di esagerata reattività. L'aveva nel suo passato recente, aveva sparato in un bar. Poco prima della terribile cosa che è accaduta aveva chiesto una licenza per un certo numero di armi, non certamente da collezione. È certamente vero che in Sudafrica è uso sparare molto facilmente, perché è un paese violento, un paese in cui ci sono aggressioni, c'è una cultura che ha permeato e permea ancora il Sudafrica di oggi, ma ci sono delle farm isolate in cui è impensabile non stare con un'arma. Il Sudafrica è il decimo paese al mondo per tasso di omicidi, con una media nel 2013 di 45 al giorno. È il primo in classifica per la violenza contro le donne, chiamata intimate femicide, ovvero femminicidio da parte del partner. Ogni 4 minuti una donna o una ragazza viene violentata e ogni 8 ore una donna viene uccisa. A parlarcene ancora l'ambasciatore Vincenzo Schioppa. Il Sudafrica è purtroppo nelle classifiche dei crimini violenti che finiscono con un omicidio è in testa, assieme a pochi altri paesi come credo il Venezuela, la Bolivia. In Sudafrica un crimine su 7 finisce con un omicidio. Come disse una volta il presidente Zuma, cioè, Sudafrica è un paese africano in cui probabilmente c'è la corruzione, è verissimo, però è un paese africano nel quale della corruzione si parla e la si sbatte in prima pagina sui quotidiani e in televisione. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia di un eroe caduto, Oscar Pistorius, che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio del 2013, per quello che lui ritiene un tragico errore, ha ucciso con 4 colpi, 3 alla testa, 1 alla mano, la sua fidanzata, la modella sudafricana Riva Steenkamp. Ma chi è Oscar Pistorius? E come ha conosciuto la bellissima modella Riva? A parlarcene l'unico uomo che ha intervistato l'atleta dopo il suo arresto, il giornalista Mark Thomas Williams, che ha dichiarato di credere all'innocenza di Pistorius. Ascoltiamolo in un'intervista rilasciata in esclusiva per Mix 24 a Rachele Bonani. Credo che Pistorius sia un uomo dotato di autocontrollo che è eccelso nello sport come atleta professionista dopo aver superato molte difficoltà fin da piccolo. Ho trascorso molto tempo con la famiglia, prima e durante il processo, e questo mi ha permesso di capire quanto sia unita e sostenga Pistorius. Il 22 novembre del 1986 a Johannesburg nasce Oscar, da Sheila ed Enke Pistorius. È affetto da una malattia rara, l'emimelia fibulare, che lo priva dell'osso fra ginocchio e caviglia. Oscar subisce l'amputazione di entrambe le gambe a soli 11 mesi. È il chirurgo ortopedico Jerry Versfeld a eseguire un'operazione all'avanguardia. A raccontarci cosa vuol dire vivere con gambe artificiali è il campione paralimpico di salto in alto Alessandro Curis. A 17 anni io ad esempio ho perso la gamba in un incidente con la moto, avevo seri dubbi su come avrei affrontato la vita con questo problema. Certo non pensavo che avrei potuto tornare a fare sport come prima. Poi una volta presa casualmente la possibilità di gareggiare come disabile, ho immesso e raddoppiato l'impegno, pur con tante difficoltà legate soprattutto all'utilizzo di una protesi idonea, e i successi sono stati conseguenti poi alla passione e all'impegno profuso. Pistorius vive le comodità dell'alta borghesia bianca del Sudafrica dell'apartheid. Il padre Henke è un uomo d'affari, la madre Sheila è la vera sostenitrice del figlio. I genitori divorziano quando Oscar ha solo 6 anni e a parlarne lo stesso Pistorius al processo. Siamo cresciuti con mia madre, era molto premurosa con noi. Voleva che io facessi sport e che non mi sentissi diverso dagli altri. Non voleva che la mia disabilità fosse qualcosa che mi lasciasse indietro. Mi ha spinto a praticare sport e altre attività per crescere sicuro di me. Pistorius infatti frequenterà la Pretoria Boys High School, famosa in tutto il paese. La madre riesce a convincere il preside ad accettare per la prima volta nella storia del collegio un ragazzo senza piedi. È qui che inizia la sua carriera di atleta, prima con il rugby, poi con l'atletica. Ma il 6 marzo 2002 una nuova tragedia colpisce la famiglia Pistorius. Sheila, la madre, muore a 44 anni per uno shock anafilattico. È sempre il figlio, Oscar, a raccontare cosa abbia significato per lui perdere la madre. Mia madre è morta quando avevo 15 anni. Era veramente importante per noi, per me, mio fratello e mia sorella. I miei genitori hanno divorziato quando ero piccolo. Tutto quello che ho imparato nella vita l'ho imparato da mia madre. La sua morte è stata dolorosa e inaspettata. Si era appena risposata. È stata ricoverata 2 settimane in ospedale. 2 anni dopo, nel 2004, l'istruttore di atletica leggera Ain Pillow comincia ad allenare Pistorius negli sprint all'Università di Pretoria e nello stesso anno il ragazzo prodigio si qualifica per rappresentare il Sudafrica nei Giochi Paralimpici di Atene. Queste sono le parole del suo allenatore alla CNN. He's a champion and champions are born. Lui è un campione, lo so, lo alleno. Sta acquisendo gradualmente tutte le caratteristiche di un fuoriclasse. Ad Atene nel 2004 è un successo. Oscar, a 17 anni, segna un nuovo record mondiale, 21 secondi e 97, vincendo l'oro nei 200 metri. A raccontarlo, Alessandro Curis, campione paralimpico di salto in alto. Era, mi ricordo, un ragazzino di 17 anni, tutto brufoli, con l'apparecchio per i denti, ma capace di mulinare dei 2 protesi come mai avevo visto fare prima ad un ragazzo della sua età. Ed eravamo assieme durante appunto una sessione di allenamento. Io ero in quel posto come tecnico della nazionale italiana e lui invece come atleta ancora sconosciuto all'esordio sul palcoscenico paralimpico. E ricordo proprio le sue prime gare, il bronzo nei 100 metri, l'oro sui 200, con partenze sempre incerte ma con il prodigioso recupero finale. Il ragazzo prodigio diventa un'icona nazionale battendo atleti amputati più quotati di lui come Brian Frazier e Marlon Shirley. Fin dal 2005 Pistorius esprime il desiderio di correre coi normodotati alle Olimpiadi di Pechino 2008. Ma la commissione medica indipendente nominata dalla Federazione di Atletica il 13 gennaio del 2008 respinge la richiesta, affermando che le protesi in carbonio offrono chiari vantaggi meccanici. Ma Pistorius non si arrende, si sottopone a tutti i controlli e finalmente a Londra 2012 può coronare il suo sogno. A raccontarcelo il campione paralimpico Alessandro Curis. Beh, Pistorius nel 2007 manifestò l'intenzione di partecipare alle gare per normodotati e esordì, ricordo, proprio in Italia al Golden Gala di Roma, arrivando secondo in una serie di 400 metri. Da lì arrivò poi lo stop della Federazione Internazionale, che ritenne l'uso delle protesi in contrasto con le norme internazionali, e ciò sulla base di uno studio condotto dall'Università di Colonia che aveva stabilito che Oscar risparmiava il 25% di energia rispetto ad un normodotato grazie ad un ridotto consumo aerobico che le protesi gli consentivano. Poi studi successivi stabilirono che questo vantaggio era in realtà inesistente e pertanto gli fu consentito di gareggiare con i normodotati. E Oscar comunque non riuscì a qualificarsi a Pechino, ma comunque seppe vincere nel 2011 nel mondiale di atletica di Daegu un argento nella staffetta 4x400 e poi a qualificarsi a Londra 2012 venendo eliminato in batteria. Comunque io credo che protesi, tutori, carrozzine sono comunque dei supporti che aiutano certamente alle prestazioni, ma ciò che vale sempre, secondo me, è proprio l'atleta con il suo spirito, la forza di volontà, l'impegno, la passione, tutti i valori che Oscar ha magnificamente rappresentato per anni. È così quando le sue protesi in fibra di carbonio toccano la pista olimpica di Londra nel 2012, 80.000 spettatori sono allo stadio solo per vedere Pistorius abbattere l'ultimo muro. Si qualifica per le semifinali dei 400 metri e taglia il traguardo in 45 secondi e 44 millesimi. il suo quarto tempo più veloce su quella distanza. Un risultato che vale ben oltre la vittoria. Alessandro Curis. È un ragazzo che di straordinario talento, un ragazzo che ha cominciato a fare sport prestissimo, a 11 anni, correndo sui bunkerini, e poi con le protesi è diventato veramente poi per noi un simbolo incredibile. Ma per quanto riguarda Oscar, avendolo conosciuto e seguito per anni, sono abbastanza propenso a credere che non abbia fatto uso di sostanze per le gare. Notorietà, successo, lusso, bellezza. Oscar e Riva si incontrano il 4 novembre del 2012 all'autodromo di Kialami, sulla strada tra Pretoria e Johannesburg. Oscar, appassionato di macchine, con il vizio della velocità, è stato invitato da Divaris, il più lussuoso concessionario sudafricano. Riva è una modella strapagata per l'evento. Ce lo spiega lo scrittore Maurizio De Giovanni. Da un rapporto difficile fra due persone che si erano amate, due persone che avevano per motivi diversi e con diverse entità una fortissima esposizione mediatica. Cioè, lei era una top model, no? Tra le più amate al mondo, tra le più fotografate, e lui era il simbolo della rivalsa dell'uomo contro i limiti posti alla natura. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un'icona sudafricana, Oscar Pistorius, l'uomo che detiene il record del mondo per amputati sui 100, 200 e 400 metri. L'uomo che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio del 2013, secondo quella che lui sostiene essere una tragica fatalità, uccide la modella 29enne Riva Steenkamp, conosciuta solo 3 mesi prima all'autodromo di Kialami. È quella di Pistorius, per la velocità e le belle macchine, una passione che ha da sempre. A parlarcene in un'intervista esclusiva rilasciata a Rachele Bonanni, Tris Taylor, madre di Samantha Taylor, l'ultima ragazza di Pistorius prima di Riva. Per due volte ho scoperto che Pistorius ha guidato la macchina a 200 km all'ora e oltre, quando mia figlia Samantha era in auto con lui. Poi mi aveva promesso che non lo avrebbe più fatto, ma io ero comunque terrorizzata all'idea che potessero avere un incidente stradale. È proprio Samantha Taylor a testimoniare al processo contro Oscar e a raccontare in un'intervista al Mirror quanto le reazioni del campione spesso la spaventassero. Di fronte ad una persona che non si controlla, devi rimanere calma. Spesso Oscar mi colpiva e mi chiudeva a chiave dentro una stanza dicendomi che sarebbe tornato presto, ma poi tornava almeno un paio di ore dopo. E ancora la madre Trish a raccontarci come ha vissuto la relazione tra sua figlia Samantha e Oscar. All'inizio era gentile, affascinante e bravo, ma quando la loro relazione è diventata più intensa, sono cominciati i problemi. È stato un processo lento. Era infedele, mentiva sempre, poi chiamava insistentemente Samantha piangendo per chiederle scusa. L'ho sentito piangere quasi tutti i giorni. Non avrei mai pensato che potesse uccidere qualcuno, ma piuttosto che si suicidasse o che fosse coinvolto in un incidente stradale. Tra l'altro, Oscar non ha mai lasciato mia figlia Samantha, ha semplicemente iniziato a frequentare Riva. Il giorno dell'omicidio ho ricevuto 34 telefonate. Alcuni amici, sentendo alla televisione che Pistorius aveva ammazzato la sua ragazza, hanno pensato si trattasse di Samantha, mia figlia. Ma chi è Riva Steenkamp? Vittima di 29 anni, la modella che sognava di diventare avvocato. Nata Nata a Cape Town il 19 agosto 1983 da Barry e June Steenkamp, Riva si trasferisce a Port Elizabeth, dove si laurea alla Nelson Mandela Metropolitan University in giurisprudenza. L'ambasciatore italiano in Sudafrica, Vincenzo Schioppa, descrive così la famiglia. Si può parlare naturalmente di una borghesia agiata di Pretoria, molto connotata dall'essere appunto di origine africana, quindi gli africani sono i discendenti dei primi coloni, non è esatto dire, insomma, di coloro che si sono stabiliti all'inizio in Sudafrica e sono connotati da una propria lingua, da una religione calvinista in molti casi accentuata, quindi è un ambito sociale e culturale certamente specifico e credo che la signorina Riva ne facesse parte. I successi come modella la fanno approdare a Johannesburg, dove vive a casa della sua migliore amica Gina Myers. E sono i genitori di Gina, Cecil e Daisy, a ricevere la notte del 13 febbraio alle ore 22 questo SMS dalla modella. Ciao ragazzi, troppo stanca, troppo lontana per guidare. Dormo da Oscar questa notte. Ci vediamo domani. Ma il giorno seguente sarà proprio la famiglia Myers a identificare il corpo di Riva a casa di Oscar Pistorius. Bella e impegnata, Riva, fin dalla sua laurea, dichiara di voler diventare avvocato per difendere le donne vittime di violenza. Dopo aver posato per la Toyota e la Cardinal, il December Summer Sizzler la definisce la ragazza più bollente dell'estate e a metà del 2012 partecipa al reality sudafricano Tropica Highland Treasure, dove fa queste dichiarazioni. I'm going home with... Tornerò a casa con tanti ricordi divertenti. Nella vita bisogna sempre mantenere la classe e l'integrità e credere in se stessi. 41 sono i giorni del processo, 4.000 le pagine di trascrizione emerse durante il procedimento. È il 9 aprile del 2014 quando Pistorius fa queste dichiarazioni al processo. Il mio intento non era quello di uccidere qualcuno. Pensavo ci fosse un intruso in bagno. Ho sentito dei rumori e la porta a sbattere. Ma allora, cosa è successo davvero quella notte? Ascoltiamo il giornalista Mark Williams. Pistorius è un atleta professionista abituato a reagire nel giro di pochi secondi. Ognuno ha il proprio comportamento e, a seconda delle differenti situazioni, ha le proprie reazioni. Quella di Pistorius è stata una reazione istintiva dovuta all'adrenalina. Io credo veramente che abbia sparato pensando si trattasse di un intruso. Se Pistorius non avesse avuto una pistola carica a disposizione, Riva sarebbe ancora viva. È un uomo sinceramente distrutto per aver ucciso la donna che amava. La giornalista anglo-sudafricana Yani Allan, basandosi su fonti attendibili, afferma in una lettera aperta al Daily Maverick che Pistorius al processo recita e lo fa prendendo lezione da un attore professionista. La sua popolarità rende il processo tra i più seguiti, è un evento mediatico internazionale. Ancora Maurizio De Giovanni. I risultati della perizia mi sembrano abbastanza univoci. Direi che sostanzialmente si è risentito molto dell'aspetto mediatico, della rilevanza mediatica di Pistorius nella formazione della sentenza. Ma io ritengo semplicemente che questo sia un omicidio dettato da un rapporto difficile fra due persone che si erano amate, due persone che avevano per motivi diversi e con diverse entità una fortissima esposizione mediatica. Credo che non potevano esserci dubbi, ecco, su chi fosse presente nel bagno in quel momento. Non credo assolutamente alla lettura del fatto che lui credesse fosse un ladro. Io sono convinto che lui abbia sparato, diciamo, non in maniera meditata, non in maniera pensata, perché avrebbe posto in essere altre situazioni se avesse voluto meditare un delitto, ecco, premeditare un delitto. Io penso semplicemente che ci sia stata una discussione fra i due, che lui abbia avuto il famoso velo rosso davanti agli occhi, ma credo che lui abbia sparato per colpire lei. La pubblica accusa guidata dal procuratore Jerry Nell sostiene che Pistorius ha ucciso Riva intenzionalmente e chiama in aula François Moller, esperto di comunicazione sui cellulari, a leggere i messaggi spaventati di Riva a Pistorius. Ho fatto tutti gli sforzi per renderti felice. Spesso non li hai apprezzati e mi hai aggredito. Tu, che dovresti essere la persona che mi protegge. Jerry Nell vuole dimostrare che quella di Pistorius per le armi è più di una passione. Questo è uno dei momenti più incalzanti dell'interrogatorio di Nell a Pistorius. You said it's softer than brains. Non ha senso. Io facevo un paragone con l'arma per catturare gli zombie. Mi sto assumendo tutte le responsabilità nel rispetto di Riva e di tutte le persone che amo. Mi prendo tutte le responsabilità. Non guardo la foto perché so esattamente cosa ho visto quella notte. Le ho toccato la testa con le mani. Mi ricordo perfettamente. Non ho bisogno di guardare la foto. Ero lì. Perché se Pistorius aveva paura non ha chiamato aiuto, abitando nel complesso sorvegliatissimo di Silverwood? Pistorius era capace di intendere di volere? A giugno 2014 il team di psichiatri che sottopone a perizia l'atleta sudafricano durante il processo stabilisce che non ha turbe mentali. La difesa guidata da Barry Rooks chiama come ultimo testimone la psichiatra Meryl Vorster per descrivere gli effetti dell'omicidio su Pistorius. He's certainly remorseful about the events. He feels guilty. Ora Pistorius vive disordini dovuti all'ansia come conseguenza del suo comportamento. Si sente profondamente in colpa con la famiglia Steenkamp. Il processo a Oscar Pistorius, cominciato il 3 marzo 2014, si chiude a 4 mesi e 5 giorni dopo il suo inizio. E a parlarcene l'ambasciatore Vincenzo Schioppa. Il verdetto della giudice è secondo me uno dei tanti episodi appunto della maturità di questo paese. Naturalmente potevano esserci mille motivi per cui fosse un verdetto appesantito da ideologie o da sentimenti di vendetta, di revanchismo da una parte o dall'altra. È stato a mio avviso un verdetto molto equilibrato, è stato un verdetto che non ha lasciato spazio per polemiche di tipo razziale. Se lei pensa, Pistorius poteva essere visto in due modi: poteva tanto essere il prodotto della società bianca sudafricana, ma in realtà lui era anche un esempio di capacità di venire fuori da una situazione terribilmente svantaggiata. Ma il 10 dicembre 2014, con una decisione che lascia molti stupiti, il giudice Masipa accetta la richiesta d'appello dell'accusa alla Corte Suprema. Per Pistorius si apre una nuova sfida o la possibilità di essere condannato a 25 anni di reclusione. In my view, la richiesta di appello è accolta. La storia di Pistorius è sicuramente una, tu lo dicevi benissimo, un omicidio volontario. Io sono convinto che non sarebbe stato diverso se veramente fosse l'ipotesi di un ladro lì dentro, come lui ha sostenuto e come sostanzialmente il tribunale ha ritenuto. Non per questo uno può sparare dal terzo d'uomo con una rivoltella. Io credo che si debba assicurarsi che il ladro non possa uscire, si chiama la polizia in quel caso. Ma francamente dover essere testimoni di una situazione come questa e sentirci anche dire che in fondo è tutto sommato si può accettare la colposità dell'evento o cose del genere, insomma, sinceramente mi sembra una cosa fuori dal mondo. Credo che questa ragazza morta meritasse più giustizia. io penso che abbia fatto più lui in questo periodo sulle piste e nei palcoscenici mediatici che migliaia di congressi e fiumi di parole sull'emancipazione e la giusta dignità da dare alla realtà sportiva dei disabili. La punizione più grossa da sopportare non è la sentenza della corte, ma convivere con la consapevolezza di aver ucciso la donna che amava. Mix 24, la storia. Luca Pancalli, avvocato, presidente del Comitato Paralimpico e del settore giovanile della FIGC, ex assessore allo sport a Roma, pentatleta. Nel 1981 cade da cavallo durante una gara a Vienna e si spezza il collo. Condannato alla sedia a rotelle a vita, non si arrende e vince 8 medaglie d'oro nel nuoto alle Paralimpiadi. Sposato, 2 figli. A Londra, 2012, Luca Pancalli, lei c'era quando Pistorius, di cui abbiamo raccontato la storia, è sceso in pista con normodotati. Qual era il clima? Ma il clima era da un lato di grande attesa per quello che si era saputo imporre nell'immaginario collettivo della dimensione sportiva a livello universale, ma non solo nella dimensione sportiva, ma anche della gente appassionata, come un fenomeno che si attendeva a questa sfida che si era posto. Dall'altra ovviamente anche grande attenzione per quello che avrebbe dovuto o saputo far dopo l'evento olimpico, ritornato nella sua dimensione paralimpica. Quindi era giusto farlo gareggiare in quell'occasione? Ma io ho sempre sostenuto di sì, nel senso che poi al di là di quelle che poi sono state disquisizioni di carattere, come dire, squisitamente tecnico, no? Se vi ricordate, se le protesi lo sì. Potevano avvantaggiare o meno, quello che significava la sì, ne abbiamo parlato, sì. Esatto, da questo punto di vista però è giusto, perché quando un uomo si pone dei limiti, al di là di come tenta di raggiungerli questi limiti, ovviamente nel rispetto di quello che sono di quelle che sono le regole, perché no? Quindi per il mondo dei disabili cosa ha significato? Ma Oscar Pistorius ha significato sicuramente tanto, ha significato, come dire, l'amplificazione attraverso la sua storia, ma di quelli che sono il milione di piccoli obiettivi che tanti atleti disabili un si pongono simbolo, quotidianamente. Una sorta di simbolo, cioè l'amplificazione massima di quello che poi ciascuno nella propria quotidianità, sia essa sportiva o no, si pone come limite. Ovvio, per Pistorio è stato un limite straordinario, eccezionale, per tanti lo sono molto meno, ma non per questo sono meno importanti. Luca Pancalli, alla fine che idea si è fatto del caso Pistorius? Ma io l'ho detto in maniera pure piuttosto esplicita, a me sembra che Oscar a un certo punto si sia potuto perdere, non era più lui che gestiva la sua vita, era contornato da manager, portavoce, gente che in qualche modo gestiva il suo percorso professionale e che era diventato anche un modo, come dire, una fonte di reddito importante, e si è un po' perso, è stato un po' vittima di qualcosa il quale non era pronto, non era stato adeguatamente supportato dal punto di vista psicologico. Oscar Pistorius, da eroe dello sport ad omicida, come ha vissuto lei questa caduta? Ma io tento di essere sempre molto, molto razionale nella valutazione delle cose. C'è un uomo sportivo e un uomo della vita di tutti i giorni. Io credo che quello che lui ha fatto come uomo, non scordiamoci che insomma una persona ha perso la vita, una giovane ragazza, non abbia nulla a che vedere con l'Oscar Pistorius sportivo, il quale io continuo, come dire, a sapere apprezzare i risultati sportivi, ma bisogna distinguere nettamente le due cose. Non è stato il primo, mi auguro che possa essere l'ultimo, ma probabilmente non sarà così, di grandi uomini dello sport che poi hanno, come dire, si sono macchiati di cose certamente condannabili. Non c'entra con la disabilità, quindi? Ma questo solo lui lo sa, è ovvio che ciascuno di noi da persona disabile ha un proprio percorso, lui ci è nato, non so quanto possa aver influito psicologicamente questo suo limite, che era un limite apparente ma forse molto visibile di quanto non possa essere il mio, ma quello di tanti altri ragazzi, per cui sai, ognuno di noi poi mette in moto dei meccanismi psicologici di difesa. Da questo punto di vista però non so su di lui quanto possa aver pesato. Luca Pancalli, cosa ha significato per il mondo paralimpico questa caduta di Pistorius? Ma assolutamente nulla, è la dimostrazione di come il mondo della disabilità, ma anche in questo caso a prescindere dalla dimensione sportiva, è un mondo fatto di persone tra virgolette normali anche nel errazioni, cioè vuol dire il mondo della disabilità va normalizzato, ci sono persone disabili simpatiche, antipatiche, ci sono dei ladri, delle persone moralmente ineccepibili, ci sono magari persone che cadono in questo, si macchiano di delitti orrendi, cioè voglio dire non è che il mondo della disabilità deve essere idealizzato, siamo tutti santi, il mondo della disabilità, io credo che la normalizzazione del mondo della disabilità, che è quello che culturalmente dobbiamo, cui dobbiamo sempre tendere, è anche la consapevolezza che anche nelle negatività siamo come gli altri. Luca Pancalli, cosa hanno significato per lei le 8 medaglie d'oro vinte nel nuoto? Significa tanto, io ero, come avete detto, un ex atleta, per cui per me lo sport ha sempre rappresentato tantissimo nella mia vita, e quando ho avuto un incidente sportivo pensavo che in qualche modo di dover rinunciare al più grande mio amore. Per me le 8 medaglie di per sé significano tanto, ma perché significano l'essere riuscito a continuare a fare ciò che amavo, lo sport, per cui probabilmente anche nel mio percorso, diciamo, di recupero psicologico con me stesso, di sforzo con me stesso per superare un qualcosa di drammatico che mi è successo, poi ero un piccolo 17enne, il poter continuare a fare ciò che amavo di più sicuramente mi ha aiutato, quindi le 8 medaglie sono soltanto la significazione di un amore che ho potuto continuare a coltivare. Quali sono i principali investimenti necessari per lo sport paralimpico? Ma sicuramente partire dal mondo della scuola. Noi ricordiamoci che il nostro è un paese che ha avuto il coraggio tanti anni fa di scegliere l'abbattimento, come dire, delle classi differenziali, abbiamo scelto l'integrazione scolastica dei bambini disabili e fatichiamo però a vederne quotidianamente, come dire, la consacrazione soprattutto nelle ore di educazione motoria e educazione fisica. Viviamo in un'Europa unita dove ancora esistono in Germania piuttosto in Francia le classi differenziali, per cui noi che abbiamo avuto questa straordinaria possibilità di andare avanti dal punto di vista culturale dobbiamo veramente andare avanti su quella strada. Esattamente. Roma Olimpiadi 2024, che opportunità rappresentano i giochi per la città e per la società? Roma Olimpiadi e Paralimpiadi 2024, non solo Olimpiadi, certo. Rappresentano tantissimo, ma non devono rappresentare l'ennesima occasione di un qualcosa sul quale magari fare guadagni, perché qualcuno immagina di no, tutte quelle cose che in qualche modo hanno rappresentato le negatività del passato. Dobbiamo sapere essere in grado di veramente credere nel fatto che candidati come Roma ad ospitare un grandissimo evento dopo tanti anni, dal 60, è un'occasione strategica per il mondo dello sport, perché sicuramente lo è, per il mondo della scuola e della cultura, perché bisogna partire anche da là e soprattutto da là. Voi pensate che nel 2024 tutti coloro che potrebbero essere i volontari in questo straordinario evento magari oggi hanno 4 anni, 5 anni, per cui significa investire sulle generazioni che verranno. E fare quello che ha fatto e ci hanno insegnato gli inglesi, ispirare una generazione. Ecco, io credo che noi dobbiamo prendere a modello quello straordinario evento olimpico e paralimpico di Londra, che ha dimostrato come si possa, a quanto è successo per altre città, si possa veramente cogliere l'occasione di un evento così importante. Luca Pancalli, Pistorius, secondo lei potrebbe tornare a correre? Ma secondo me, perché no? Io credo che, sai, il limite sportivo è dato molto dal limite mentale, bisogna vedere se ne avrà la forza dal punto di vista mentale di rimettersi in gioco, soprattutto di reggere quello che magari potrebbe significare, perché l'attenzione dei media sicuramente non sarà calata e lui sarà ricercato non per gli aspetti positivi per i quali era ricercato fino all'evento tragico, ma per gli eventi negativi che lo hanno visto, ahimè, protagonista. Però perché no? Bisogna vedere anche se dal punto di vista mentale, ripeto, reggerà, dal punto di vista anagrafico forse gli anni non gli consentiranno di essere magari così competitivo, ma io credo che una volta che una persona abbia pagato il suo debito con la giustizia, eccetera, insomma, le sue velleità sportive, se le avrà, devono essere salvaguardate. Grazie. Grazie a voi.